Allora, nel lavoro sulle qualità inquinanti, che possiamo anche chiamare sul lavoro sulle qualità interiori e stati condizionati, si può partire appunto da questa domanda. Qual è lo stato interno, la qualità che per te apre il mondo delle qualità dell'essere? Qualità dell'essere che, come sappiamo, per essere tali devono esserci tutte. E quindi il mondo delle qualità dell'essere è il mondo dell'amore, che si contrappone, al potere. Quindi nella vita abbiamo un asse su cui ci spostiamo dal polo del potere al polo dell'amore. Il potere porta per definizione alla sopraffazione dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla natura e porta molta sofferenza. Il potere è contrario all'anima, è contrario alla spiritualità ed è, diciamo, l'unico vero peccato dell'essere umano. Dall'altra parte abbiamo l'amore. L'amore è una forza evolutiva molto potente, è l'espressione dell'anima. Il potere è espressione, mentre il potere è espressione di una visione a tunnel, l'anima è espressione di una visione a 360 gradi, quindi la visione dell'anima è per sua natura ecologica, cioè tiene in considerazione tutti gli esseri, tutte le parti implicate. Mentre il potere, chiamiamolo ego, chiamiamolo piccola mente, ha una visione a tunnel, è totalmente centrato su di sé. Come diceva Galimberti nel capitolo sulla felicità, l'essere umano fa questo grande errore di considerare se stessi, i suoi desideri, come il tutto, è questo il centro, anziché come una parte del tutto. E nel momento in cui l'essere umano fa questo peccato di orgoglio, si consegna alla macchina del desiderio, che sappiamo è una macchina di dolore. Ora, dico ancora due o tre cose a proposito del potere perché è interessante. Cioè, quando il potere viene esercitato su un innocente, il potere diventa qualcosa di tremendamente perverso, e il simbolo è quello della croce uncinata, cioè il livello massimo che l'umanità ha raggiunto. D'altra parte, la redenzione della croce uncinata non può avvenire dal semplice amore, così. Occorre un amore molto più potente di quello che una madre ha per un bambino. E questo amore, nei confronti del male assoluto, porta come simbolo quello della croce, la capacità di portare una parte di quel peso. Ma perché devo portare una parte di quel peso? Ma perché l'essere umano che ha prodotto quel dolore è un essere umano come me. Se trovato in quella circostanza, se mi ci fossi trovato io, avrei fatto lo stesso. Quindi l'amore che poi diventa croce è l'amore che è guidato dalla più alta visione possibile. Ed è quella di Gesù, è quella dei grandi, nella storia umana, insomma, dei grandi profeti, dei grandi uomini, insomma, i quali hanno la capacità di vedere così in profondità che riconoscono la loro connessione continua con tutti gli esseri umani, ovviamente, con tutti gli altri esseri. Il potere invece crea sempre una scissione, e il potere è frutto della divisione e separazione. E proprio perché è separato, il potere vive di paura, e come essendo pieno di paura, il potere ha bisogno di controllare, e questa è la solita storia. Adesso vediamo come questi principi, che sono poi principi astratti, ma sono principi astratti appunto, tirati fuori dall'esperienza, possono, ritornando dentro l'esperienza di una persona, dare una nuova visione, consentire a questa persona di uscire dai suoi circuiti distruttivi. La tematica quindi è come le qualità dell'essere, trovando poi la qualità critica, la qualità interiore, se viene recitata quella qualità interiore, i problemi della persona, ma tutti i problemi, vengono trasformati e si sciolgono, perché i problemi nascono e si mantengono grazie all'esercizio degli inquinanti della mente e quindi, in altre parole, attraverso l'esercizio del potere. Potere è il simbolo di tutti gli inquinanti. Il cardinale Martini, quando parlava in un'intervista con Scalfari, dice: ma qual è l'unico peccato? L'unico peccato dell'essere umano è quello, l'oppressione, cioè il potere. Per questo che Panikkar dice: da una parte c'è potere, dall'altra l'amore. Dove c'è il potere non ci può essere amore. Faccio una parentesi. ricordiamoci che quell'asse del potere si può scorrere lungo l'asse, quindi non è che c'è solo potere o c'è solo amore, di solito ci sono tutte e due nelle comunicazioni umane. Nella zona centrale, nella gran parte dell'asse, tutto quello che esce da lì è amore mischiato a potere. Ma proprio per questo è pericoloso, perché è un doppio legame. E quindi chi ci si sottopone, chi lo riceve, o ha grande visione, oppure ci casca dentro. E cosa succede? Che le sue emozioni sono confuse, perché da una parte può provare anche gratitudine, ma dall'altra prova rabbia. E gratitudine e rabbia insieme non stanno. E quindi va in uno stato di confusione. Questo stato di confusione non ne può uscire finché non riesce a vedere le cose dall'alto, da una visione più completa. E questo stato di confusione è frutto del doppio legame e porta nell'esperienza pratica a vivere come la rana bollita, pian pianino una persona perde sempre più forza. Allora questo nelle coppie accade spessissimo, cioè le coppie dovrebbe essere il luogo evolutivo per eccellenza e invece diventa luogo quasi sempre di stagnazione o addirittura involutivo. Visto perché nella nostra cultura mancano le strutture necessarie a comprendere cos'è la coppia. Ma ancora prima mancano le strutture necessarie per comprendere cos'è un essere umano. Quando qualcuno ci prova a spiegarlo cos'è un essere umano, è difficile che riesca a farsi capire, anche se ha delle idee chiare, perché deve superare dei pregiudizi talmente forti che occorre quindi una dedizione notevole alla chiarezza, alla pulizia del linguaggio. La mission di Aleph è questo, di creare dei simboli, degli strumenti di comprensione che siano insegnabili a tutti, dalle prime elementari, forse anche prima, anzi, dall'asilo. Ecco. Va bene, ritorniamo adesso a vedere una situazione concreta. Allora, parlando con una persona, che chiameremo Maria, non dirà nome da presepe, va bene, una Maria. Andando a vedere... qual è la cosa di cui, qual era la carenza che aveva questa donna? Beh, la carenza fondamentale era di non essere stata vista, riconosciuta nella sua famiglia. Ma niente di grave, una famiglia normalissima. Solo che questa mancanza di essere vista e riconosciuta era piuttosto forte per tutti i fratelli. Cosa non è stato visto? No, certo che è stata vista, fisicamente è stata vista tante altre cose, ma che cosa ha bisogno un bambino? Che cosa deve essere visto di un bambino? Tutto, ovviamente, ma in particolare l'essenziale che sia vista la sua essenza. La sua essenza, cioè la sua anima, cioè le sue qualità interiori. L'anima o la psiche. Cosa vuol dire psiche? Vuol dire il flusso dei sentimenti. Quindi possiamo dire che un bambino è visto se viene visto il flusso dei suoi sentimenti. E quindi a questi sentimenti gli viene dato significato in un tessuto relazionale. E se a questi sentimenti viene dato significato in un tessuto relazionale, il bambino impara a dare significato a questi sentimenti e a dargli valore. E perché i sentimenti hanno valore? Perché i sentimenti sono collegati ai bisogni. Se siamo soddisfatti, se i nostri bisogni primari sono soddisfatti, i nostri sentimenti sono positivi. Se i nostri bisogni primari sono insoddisfatti, i nostri sentimenti sono negativi, di rabbia, tristezza, paura. Questo è molto semplice, questo meccanismo che la natura ci ha dato, solo che con l'uomo la cosa si complica proprio perché, per le cose che vi ho detto prima, praticamente non c'è quasi famiglia in cui il potere non venga usato. E quindi quando al potere all'amore si accompagna il potere, la relazione è inquinata. Alla relazione inquinata il bambino reagisce. Come? Attraverso un fenomeno depressivo, volendosi ritirare, ma poi naturalmente apprendendo questa modalità e quindi corrompendosi anche lui di potere. Vediamo già di bambini di 2-3 anni che sono corrotti dal potere, non c'è dubbio. Okay. Quindi l'innocenza infantile finisce molto presto. L'innocenza è la capacità di non nuocere. E bambini imparano a loro volta a far soffrire gli altri abbastanza in fretta. Okay. Allora, data questa struttura che è comunissima, si tratta di vedere poi in concreto, chiedere alla persona, ma qual è la qualità che se tu manifesti, proprio pienamente, nel mondo, con te stessa e con gli altri, tu senti di ricaricarti di energia, di espanderti, di stare bene, di essere piena, e quindi di sciogliere tutte quelle che sono le comuni problematiche che si accompagnano al potere, all'ego. Poi questa persona dice, la Maria dice, la gratitudine. cosa, chiedo che cosa la gratitudine, quale sensazione provoca in te? Beh, l'espansione, il senso di espansione, dove? Nel torace. Ecco, espansione del torace, chiedendo più approfonditamente, viene fuori che è la sensazione del pericardio che si rilascia, quindi il cuore che si apre, la respirazione che si fa più libera. Ok, poi chiedo, ma queste sono le sensazioni, a livello dei pensieri? Beh, a livello dei pensieri, c'ho dei pensieri di gratitudine, quindi ci sono delle parole che tendono a esprimere riconoscimento e gratitudine a ciò che c'è, ecco. E altre sensazioni? Beh, a volte sento una commozione, gli occhi diventano lucidi, e allora possiamo chiederci, cos'è commozione? Cum movere, cioè muovere insieme. Emozioni sono i movimenti dall'interno verso l'esterno, la commozione è qualcosa che muove insieme. Io mi commuovo perché entro in risonanza con un altro essere umano di cui vedo la bellezza, di cui vedo l'anima. Questa è la commozione. E perché mi commuovo? Perché di solito degli esseri umani cogliamo gli aspetti superficiali che con l'anima hanno ben poco a vedere. Sono gli aspetti di copione, di maschera a cui siamo abituati. Nel momento in cui di un essere umano cogliamo l'essenza o la bellezza, è naturale commuoversi. Così come ci commuoviamo di fronte a una bella musica, di fronte alla natura, di fronte a tanti altri aspetti. Bene. E la commozione cosa porta? Beh, intanto la commozione, gli occhi che si inumidiscono, le lacrime sono un segnale dell'apertura del centro del cuore, quindi una conferma dell'espansione. E quando io mi muovo insieme, cosa vuol dire? Che mi commuovo, vuol dire che entro in empatia profonda. Quindi entro in risonanza. E la risonanza cosa dà? Beh, la risonanza mi fa percepire il senso di unità con la persona con cui entro in risonanza e per generalizzazione pian piano con tutto ciò che c'è, con tutti gli esseri. Ma è questo che cosa produce? Senso di unità e quindi un senso di benessere profondo. È quello che, di cui parla anche Freud quando parla del sentimento oceanico. Il sentimento oceanico che il bambino prova durante la gravidanza, di essere parte di qualcosa di più grande, non badare a nulla, di essere la goccia in un grande oceano, che poi è la visione orientale, no, dell'essere umano. Mentre la visione occidentale dell'essere umano è essere sì in un oceano, ma non come goccia, ma come piccola imbarcazione in balia delle onde, quindi sempre in pericolo di affogare. Nella visione orientale non si può affogare perché sei già dentro l'oceano, devi solo riconoscere la tua vera natura. Ritorno, continuando la conversazione, viene fuori, ma cos'è quest'unità, questo benessere, che cosa ti dà? Beh, come dicevo prima, ti dà il senso di assoluta sicurezza. Una goccia in mare, cosa ha da temere? Nulla. Non può succederle niente. È già al sicuro e lo sarà sempre, perché è il mare. Allora, mentre Freud riteneva che il sentimento oceanico fosse qualcosa di temporaneo, che si prova solo in innamoramento e non è patologico perché dura poco, beh, nella visione orientale non è così. Il sentimento oceanico è il superamento della personalità scissa e divisa. Quindi un illuminato vive in un sentimento oceanico di totale connessione. Quindi in Oriente è stato studiato l'inconscio superiore, in Occidente ci si è fermati all'inconscio medio e all'inconscio inferiore, in termini di psicosintesi. Bene, attraverso questa intervista abbiamo compreso come mediante la gratitudine è una porta che apre al mondo delle qualità dell'essere, quindi della gioia, e quindi del sentimento di assoluta sicurezza e benessere, che tutto quello è di amore, quindi entri nella casa dell'amore dove ciascun essere umano vorrebbe risiedere permanentemente. Ulteriore domanda, ma che cos'è che ti può far accedere a gratitudine? Ecco, e allora lì la risposta è il vedere, cioè il riconoscere. Ah, quindi quello che ti impediva di accedere a gratitudine era che non vedevi, che non riconoscevi. Esattamente. Ma era quello che ti era successo in famiglia. Esattamente questo. Quindi non essendo vista, non essendo riconosciuta, Maria in famiglia ha imparato a non vedere e riconoscere. E cosa succede? Se lei non vede e non riconosce? Beh, se non vede e non riconosce, accade quello che lei sentiva in famiglia. Cioè, se non c'è riconoscimento, c'è l'opposto. C'è l'indifferenza o il disprezzo. E Maria viene molto toccata da questa comprensione, perché si rende conto che per tutta la vita lei ha praticato il disprezzo. Ovviamente non sempre, è solo una parte di lei c'è una parte di anima, una parte grande mente, ma quando non sta bene, quando soffre, lei pratica il disprezzo. Quindi pratica esattamente quella forma d'onda, quel tipo di danza che l'ha fatta soffrire. Ma proprio praticando il disprezzo, il non riconoscimento, che cosa succede? Che aumenta la sofferenza. Il riconoscimento di cosa? Allora usiamo il metamodello 2. Non riconoscimento è una forma d'onda, non vedo, non riconosco. Quindi si applica a 360 gradi, diciamo così. E quindi non riconoscimento di che cosa? Dei propri sentimenti, della propria anima e quindi dei propri veri bisogni, da una parte. Non riconoscimento delle qualità che ci possono essere intorno. Quindi come si fa, come è che la persona passa dalla gratitudine dal riconoscimento, dalla gratitudine al disprezzo? Attraverso una visione a tunnel. Un tunnel in cui al fondo del tunnel ci sono i bisogni e i punti di vista a cui la persona si affeziona, diventano i suoi idoli, le cose in cui crede fermamente. La visione a tunnel porta che cosa? A un attaccamento a questi bisogni, a un attaccamento a questi punti di vista, non li puoi togliere. Perché? Perché sono la sua ancora di salvezza. Sono la sua maledizione, ma sono anche l'ancora di salvezza che lei conosce per poter sopravvivere. Questi bisogni, questi punti di vista alimentano che cosa? La rabbia, perché i bisogni non sono soddisfatti. E non possono essere mai soddisfatti, quindi dietro ci sono le pretese e lamentele. Pretese e lamentele che si trasformano nella comunicazione in racket, diventano racket, cioè quei doppi legami che siamo abituati a non riconoscere perché siamo tutti rane bollite. Ecco. Quindi è molto difficile che ci sia una persona in grado di confrontare un racket davvero, senza praticare un contro-racket. Quindi dai racket è molto difficile uscire. Adesso parliamo del disprezzo, ma se io disprezzo, perché sono stato disprezzato, attenzione, quando io non sono stato visto, non sono stato riconosciuto, sono due possibilità, a cui ero indifferente e a cui ero disprezzato, quindi le due cose, l'indifferenza e il disprezzo. Allora imparo a praticare l'indifferenza e il disprezzo, questo mi imparo a fare. Ma il disprezzo cosa implica? Se io disprezzo qualcos'altro vuol dire che lo tengo separato di me, non sono io, è fuori di me, ecco, quindi la visione a tunnel, il disprezzo, sono espressione tutti di separatività, se no non potrei mai disprezzare un'altra persona, per nessuna ragione al mondo. Ok, la separatività cosa porta? Separatività da sé e dagli altri, attenzione, separatività dall'anima, cioè dall'anima propria altrui, porta a una sofferenza senza fine, quindi a un fondo depressivo che non si stacca mai. La sofferenza che ovviamente si accompagna a paura, perché la separatività genera il senso di paura, l'opposto della sicurezza, e quindi genera bisogno di controllo. Quando c'ho paura io devo trovare il bisogno di controllo, poi si esercita attraverso gli strumenti del potere. Ecco. Allora, ecco che poi siamo andati a analizzare qual è, questa è la prima fase. La seconda fase del lavoro è stato andare a cercare di Maria la cosa che teme di più. Qual è la condizione interiore che teme di più? In due parole ci dice l'abbandono e la solitudine. Applicando il metamodello 2 viene subito chiaro che se applichiamo l'ombra, io ho paura dell'abbandono, io ho paura di abbandonare, cioè io abbandono gli altri, io lascio gli altri soli. Che cosa ne deriva quando lascia gli altri soli, quando li abbandona? Un dolore, una disperazione, fino a sentire un senso di morte, no? Ecco. Allora, chi ha ricevuto, vale il principio dell'informatica, garbage in, garbage out. chi ha ricevuto svalutazione, disprezzo, tende a svalutare e disprezzare, ma proprio facendo così si separa e proprio separandosi prova dolore, ma siccome prova dolore si difende come? Continuando a disprezzare, perché chi è stato disprezzato non si stima, non stimandosi ha bisogno di qualche appiglio per vivere, e allora anche questo vale guardandosi intorno, non può stimare altre persone, perché se le stima troppo e quindi le deve svalutare. Ecco, quindi se si sposa o ha degli amici stretti, prima o poi arriva la svalutazione, perché prima c'è il confronto è negativo nei propri di sé, perché io non mi valuto, a questi punti cosa succede? Che svaluto l'altro, lo tiro giù anche lui, o lo tiro giù anche lei. La domanda chiave è, ma di fronte all'abbandono e alla solitudine, come reagisci? Quali sono, perché vogliamo vedere quali sono i loop che mantengono il problema? E allora qui ci viene Maria, ci parla di tre loop possibili. Uno, diventare attiva, mettere il problema della sofferenza sotto il tappeto e quindi cercare altre persone e quindi, insomma, andare in bicicletta, organizzare cose, dare viaggi, tutto, qualunque cosa di questo tipo. E questa è una strategia di sopravvivenza. Sopravvivenza che è una compensazione, quindi non può risolvere il problema originario, perché che rimane identico, ma che comunque dà un notevole sollievo. Poi c'è un'altra strategia di sopravvivenza che è l'aiuto ai più deboli. Allora, Maria si identifica nelle persone più fragili, più deboli, perché lei non si è vista, non è stata riconosciuta, quindi dentro di sé c'è una parte debole e fragile, e aiutando le persone più deboli e fragili in realtà sta aiutando se stessa. La strategia più interessante nel caso di Maria era invece quella del controllo, cioè un modo per tenere a bada la solitudine, il senso di abbandono, è quello di mettere in primo piano i compiti e in secondo piano le relazioni. Attraverso i compiti, le relazioni, i doveri, riesce a tenere in piedi, a diventare leader nelle situazioni. No? Ecco, naturalmente quindi lei si prendeva un sacco di impegni, e metteva sempre gli altri in condizione di essere di a meno. In questo modo si poteva one up. Questa è una compensazione, anche questa, che è piuttosto rischiosa, perché cosa porta? Maria, mentre faceva compiva questi doveri che lei si assumeva, dentro sentiva rabbia. Questa rabbia veniva scaricata fuori, per cui insomma, Maria si nutriva, usciva dalla depressione, ma si riempiva di rabbia. E dandosi ovviamente ragione, e però scaricandola sugli altri, e lì si attivava una subpersonalità ossessiva e paranoide, caratterizzata da questo fatto che i compiti venivano sempre prima della relazione.